noi di Medici Senza Frontiere abbiamo trovato particolarmente sconcertante le affermazioni del ministro Giovanardi in una risposta a un question time ieri posto dall'onorevole Russo Spena riguardante lo status dei centri di Borgo Mezzanone e di Otranto e il motivo per cui c'è stato dato un diniego all'ingresso ai centri. Crediamo che la risposta di Giovanardi appunto sia sconcertante per due motivi: uno, perché equipara Borgo Mezzanone e Otranto a dei centri di permanenza temporanea quando sappiamo perfettamente che sono dei centri di identificazione; la seconda cosa, altrettanto grave, è che ha detto all'interno di questa risposta che Medici Senza Frontiere aveva la possibilità di accedere ai centri per fare un rapporto in considerazione del fatto che aveva delle esperienze sulla SARS e non sappiamo bene da dove venga questa notizia, questa informazione. Noi abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Interno l'autorizzazione per entrare ai centri e per verificare le condizioni dei centri lo scorso luglio e abbiamo potuto verificare le condizioni dei centri di permanenza temporanea facendo un rapporto poi. Questo rapporto ha dato origine a un atteggiamento ritorsivo nei nostri confronti da parte del Ministero dell'Interno in particolare e questo ovviamente ci rammarica, ma è questa la realtà e non quello che è stato detto dal Ministro Giovanardi, che ci accusa ancora di slealtà nei confronti del governo, accusa che noi rigettiamo assolutamente e diciamo che voglio dire, noi siamo stati lealissimi, avevamo un accordo molto chiaro che era quello che avremmo appunto fatto uno studio all'interno dei centri, verificato le condizioni. Questo studio è stato presentato alcuni giorni prima che uscisse pubblicamente, rispettando le regole e i patti che avevamo dato, per cui non capiamo come ci si possa definire sleali.